24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Obama rieletto, Europa soddisfatta, America partner strategico. Barroso e Van Rompuy intendono proseguire la stretta collaborazione con il capo della Casa Bianca, ma la crisi europea oscura l'effetto Obama. Fitch e Moody's avvertono, l'America rischia la AAA se non riduce il debito. In Europa, Milano e Madrid le piazze peggiori, bruciati 100 miliardi di euro. La Commissione prevede un biennio di acque agitate e pesa anche la debole crescita dell'Eurozona prevista da Draghi. In Grecia, secondo giorno di sciopero, mentre il Parlamento vota un nuovo giro di vite. La Francia equipara i matrimoni gay a quelli etero. Un saluto da Paolo Pancieri e bentrovati a questo nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. Un'ampia pagina ovviamente sulla rielezione di Barack Obama alla presidenza degli Stati Uniti. Iniziamo con le reazioni delle istituzioni europee. I presidenti di Commissione José Manuel Barroso e Consiglio Herman Van Rompuy hanno ricordato che gli Stati Uniti sono un partner strategico. Intendiamo portare avanti la stretta collaborazione già stabilita con Obama in questi anni per rafforzare ulteriormente i nostri legami bilaterali e affrontare insieme le sfide globali, in particolare la sicurezza e l'economia. Unione Europea e Stati Uniti sono i più stretti alleati al mondo, ha invece detto il presidente dell'Europarlamento Martin Schulz. La cronaca di Beda Romano. È con evidente soddisfazione che l'Europa ha salutato la rielezione di Barack Obama alla Casa Bianca. Da più parti i comunicati dei governi nazionali e delle istituzioni europee sono stati particolarmente positivi. Dietro alle congratulazioni di maniera si nascondono da un lato il desiderio della continuità, ma anche una generale cautela con la quale l'establishment europeo ha accolto l'arrivo sulla scena politica di Mitt Romney, troppo religioso per le sensibilità laiche della società europea, tendenzialmente troppo liberista in politica economica e troppo isolazionista in politica estera. Ciò detto, i prossimi 4 anni non saranno probabilmente privi di divergenze tra Obama e la classe politica europea. La soluzione dello sconquasso debitorio, le relazioni commerciali, la gestione della crisi in Medio Oriente sono tutti potenziali argomenti di dissenso. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. Queste invece le reazioni dalle capitali europee. Con la sua conferma alla Casa Bianca, l'Italia sa di poter contare su un'America forte e solidale. Scrive così il presidente della Repubblica Napolitano nel messaggio di congratulazioni inviato ad Obama. La sua rielezione è una notizia positiva per il nostro paese e per l'Europa, spiega al TG1 il capo dello Stato. Obama ha espresso fiducia nell'Europa e fiducia nel nostro paese e potremo su questa base consolidare una fondamentale collaborazione. Obama è un presidente che capisce l'Europa e con il quale è bello collaborare, aggiunge il presidente del Consiglio Monti. Positivi sono anche tutti i commenti che arrivano da cancellerie e governi del vecchio continente che temevano politiche isolazioniste da parte degli Stati Uniti in caso di una vittoria di Romney. Caute speranze arrivano anche dal mondo islamico. Ad Obama si rivolgono soprattutto i ribelli siriani che all'inquilino della Casa Bianca chiedono ora di mettere la questione siriana in testa alle sue priorità, come fatto con la Libia nel suo primo mandato. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E congratulazioni sono giunte anche dal presidente israeliano Shimon Peres, dal re saudita Abdallah e da Pechino. Il presidente russo Vladimir Putin ha inviato un telegramma, al premier Dmitry Medvedev ha twittato le sue congratulazioni. Ma il fronte economico non brinda la rielezione, anzi, in serata Fitch ha spiegato in una nota che se la questione del fiscal cliff non verrà risolta, l'anno prossimo gli Stati Uniti rischiano di perdere il rating massimo di AAA. Anche per Moody's, se gli Stati Uniti non stabilizzeranno il debito, perderanno il proprio rating. La crisi dell'Europa ha scurato l'effetto Obama in borsa, l'allarme sull'economia del vecchio continente, con le previsioni di crescita rivista a ribasso per il 2013 e la disoccupazione prevista al 12%, ha spazzato via l'effetto positivo della rielezione del presidente. Il responsabile degli affari economici, Olli Rehn, ha puntato l'indice sul ritmo lento di riduzione del debito pubblico. Inoltre, a deprimere i listini europei sono state anche le parole del presidente della BCE, Mario Draghi, sulla debole crescita nell'Eurozona e il dato sulla produzione industriale della Germania, calata a settembre dell'1,8% rispetto al mese precedente, peggio delle attese. Anche Wall Street non ha brindato. Sugli indici ha pesato la minaccia del fiscal cliff, la combinazione della fine di sgravi fiscali e tagli automatici alla spesa pubblica. Tra le borse europee, Milano ha accusato le perdite maggiori, con il FTSE MIB in calo del 2,49%. Male anche Madrid, meno 2,26%, Parigi meno 1,99%, Francoforte meno 1,96% e Londra meno 1,58%. Le borse europee hanno salutato la rielezione del presidente americano Barack Obama con un netto ribasso sulla scia di Wall Street, che ha già iniziato a ragionare sulle grandi sfide che ha dinanzi a sé la Casa Bianca per sostenere la ripresa della congiuntura USA e per mantenere sotto controllo i conti statali. In più, le stime della Commissione europea sull'economia del vecchio continente hanno smorzato qualsiasi entusiasmo, mentre è rimasta alta la tensione in Grecia, nell'attesa di novità sul nuovo piano di austerity propedeutico a ottenere nuovi fondi. Milano ha accusato la performance peggiore, penalizzata dalle parole del responsabile degli affari economici Olli Rehn, che ha puntato l'indice sul ritmo lento di riduzione del debito pubblico. Il FTSE MIB ha chiuso il ribasso del 2,5%, mentre lo spread si è di nuovo portato a 353 punti. Così sono andate male le banche. Fiat è scivolata di oltre il 6%, con gli analisti che continuano a essere preoccupati per la situazione finanziaria dell'azienda. Sono inoltre scivolate di oltre il 6% le ST, mentre le autogrill sono salite dello 0,3% sulla scommessa di un imminente riassetto dell'azienda. Hanno inoltre arginato le perdite le Enel Green Power, meno 0,9%, beneficiando dell'ipotesi che Obama rinnovi gli incentivi per la green economy. Da Radio Core, Eleonora Micheli per Radio 24. Secondo giorno consecutivo di sciopero generale ieri in Grecia, mentre il Parlamento ha votato sulle misure di risanamento supplementari che vengono chieste al paese per ricevere una nuova tranche di aiuti. Mentre la Grecia per il secondo giorno consecutivo resta paralizzata dallo sciopero di 48 ore indetto dai sindacati con migliaia di persone di nuovo in piazza, in Parlamento è in corso il dibattito cruciale sulle nuove misure di austerità che i deputati voteranno questa sera, presumibilmente intorno a mezzanotte. Un pacchetto considerato indispensabile dai creditori internazionali per concedere alla Grecia una nuova tranche di aiuti da 31 miliardi e mezzo. L'approvazione delle nuove misure è inevitabile se vogliamo evitare il fallimento, ha detto davanti alla Commissione Finanze il ministro Yannis Sturnaras. Ci troviamo nel momento più critico e dobbiamo prendere la decisione giusta. Contro le misure di risanamento supplementari che provocano dissidi anche all'interno dei tre partiti della coalizione di governo restano fortissime le resistenze dell'opposizione della sinistra radicale di Siriza, che parla di un genocidio sociale imposto da quella che definisce la dittatura del memorandum firmato con la Troica. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il governo francese ha dato il via libera alle adozioni gay, mentre i matrimoni omosessuali sono stati equiparati a quelli eterosessuali. La Francia si allinea così ad altri paesi europei, tra cui la Spagna. Il commento di Marco Mussanè da Parigi. Era una delle 60 proposte della campagna elettorale di Hollande e quindi era assolutamente ovvio che prima o poi ci sarebbe arrivati. Alcuni pensavano che forse il presidente avrebbe preso un po' più di tempo prima di varare questo progetto di legge che andrà in Parlamento a gennaio, viste le divisioni che questo tema crea nel paese, ma evidentemente ha deciso comunque di procedere. L'attuale progetto e la nuova legge prevede appunto un'equiparazione totale, cioè viene cambiato sostanzialmente l'articolo del codice civile sul matrimonio. Il nuovo articolo dice che il matrimonio è contratto tra due persone di sesso diverso o dello stesso sesso. Resta certo la grande opposizione, ma devo dire che sul matrimonio omosessuale in realtà, secondo i sondaggi, l'opinione pubblica è abbastanza favorevole, siamo intorno al 65%. Il tema vero di divisione riguarda appunto quello delle adozioni, su cui invece il paese è davvero spaccato in due, cioè la possibilità per le coppie omosessuali di adottare dei bambini. A settembre il commercio al dettaglio nell'eurozona è calato dello 0,2% contro un aumento dello 0,2% registrato in agosto. Il dato diffuso da Eurostat rispetto a un anno fa, il dato è calato dello 0,8% nei 17 e cresciuto dello 0,3% nella zona 27. Il comparto cibo, bevande e tabacchi è cresciuto dello 0,8% in Eurolandia e dello 0,5% nell'Unione, mentre il settore non alimentare è rispettivamente calato dello 0,6% e salito dello 0,1%. Terreni situati in Lombardia e in Galizia, in Spagna, ricoperti da pascoli permanenti e foreste, spacciati per terre agricole che possono beneficiare di aiuti europei, ma anche carenze gravi alle regole in materia di mercati pubblici nel gasdotto tra la Romania e l'Ungheria, ma che la Commissione contesta fino al mancato rispetto delle procedure per progetto per l'approvvigionamento in acqua di Etiopia. Questi ed altri errori delle finanze europee 2011, per un ammontare di circa 5,2 miliardi di euro su un totale di 130 miliardi, sono finiti nel mirino della Corte dei Conti europea. È come dire, spiega la portavoce del commissario alla fiscalità Algirda Semeta, che per ogni 100 euro di fondi europei, 96 sono stati ben spesi, mentre i restanti 4 sono a rischio, ma non per questo sono stati persi o sperperati, o ancor meno sono oggetto di frodi. La proposta della Commissione europea su un sistema comune per la gestione e la liquidazione delle banche in difficoltà non è sufficiente in quanto non affronta davvero lo scenario di una crisi sistemica. E la critica rivolta dalla Commissione Affari Economici dell'Europarlamento al testo presentato dall'esecutivo comunitario che, secondo il relatore Gunnar Hökmark, va bene per gestire una singola banca in crisi, ma non basta per affrontare un'ampia crisi bancaria. Ed è tutto per 24 ore in Europa. Un saluto da Paolo Pancieri in studio e da Fabio Cantadoni in regia tecnica. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.